avec des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Non è un mistero per nessuno, e qui forse mi faccio bello di una biografia che giudico sin troppo nota, quando in realtà forse nessuno gliene frega niente. Dicevo, non è mistero per nessuno che io sia totalmente ignorante in campo di calcio. Non lo faccio per snobismo, come quelli che dicono io non guardo le partite, che in realtà da bambino a casa mia nessuno si occupava di calcio, non mi facevano giocare a pallone. Quando le rare volte a scuola mi costringevano a giocare a pallone, mi mettevano a porta perché non ero capace a far niente, anche lì facevo schifo. Crescendo avevo sempre dei bei palloni che mi permettevano di socializzare, portavo il pallone, ma la maggior parte delle volte mi mettevano a bordo campo a guardare gli altri e quindi stavo lì. E non mi ha mai appassionato, non è colpa mia, magari è un bellissimo sport, vedo che affascina un sacco di persone, vivo in una via che nottetempo e di giorno è costellata di tifosi che vanno allo stadio. Notti fa ho visto una lunga transumanza di personaggi vestiti di rosa che andavano e tornavano, andavano urlando e tornavano a testa bassa, ma non so per cosa fosse e dove andassero. Era lì, mi divertiva a vedere file di umarelle, di signore panzute, di ragazzi tutti vestiti di rosa. Forse andavano a qualche raduno, adesso c'è la settimana del Gay Pride a Roma, non so bene perché. Comunque questo mi hanno detto e mi dicono che ha a che fare con il calcio. Però traggo passione, divertimento, attenzione al mondo del calcio quando la cronaca mi offre fantasmagoriche occasioni di divertimento, come questa ultima del grande episodio del marciume nel mondo del calcio. Beh, perché? Perché mi diverte vedere questi signori vezzeggiati, questi calciatori iper ricoperti di simboliche attenzioni femminili, portati come protagonisti nei talk show televisivi, belli, ignoranti, abbronzati, vezzeggiati, lusingati, sempre al centro dell'attenzione, che rappresentano il prototipo della mascolinità preponderante, anche se poi in realtà altri episodi di cronaca mi fanno sorridere anche su questo versante. Beh, vederli poi impegnati in vicende così turpi, calciatori che danno il sonnifero ai loro colleghi per truccare la partita, altri che vanno a fare le scommesse in luoghi esotici perché si vendono le partite, portieri che guadagnano 10.000 euro al mese, che farebbero la felicità di ogni famiglia, che hanno bisogno comunque di corrompersi perché non gli basta perché serve la bottiglia di champagne per andare nel privé della discoteca, per far schiattare d'invidia la banda di coatti che stanno sotto ad agitarsi sperando di essere colti dallo sguardo munifico del calciatore. Beh, questa mattina questa mia ignoranza sarà spero colmata dal vostro contributo. Chiamate all'800240024. Voi che amate il calcio, voi conoscete il calcio, voi che andate a vedere le partite, voi che giocate a calcetto, voi che spappolate le rotule e le ginocchia ogni fine settimana per giocare a calcetto sul fior dei 50 anni con i vostri amici, lasciando come vedove bianche le vostre signore a casa. Beh, voi questa mattina datemi una mano, perché assieme al prode Giuseppe Sansonna vi parlerò del calcio, dei suoi aspetti turpi, dei suoi aspetti gloriosi nella storia del cinema. L'allevamento dei lombrichi è un investimento a lungo termine. Io e Sossi invece abbiamo un affare veloce per l'una. Che cos'è? Oh, accordo Parigi, ci siamo dentro io, Sossi, Lingus e Palù. Tra l'altra parte siamo già d'accordo in sé. Ma che cazzo state a te? Ma la dobbiamo vincere la partita, non siamo in corsa per la UEFA, oh. Anto, già siamo in zona UEFA, domenica scorsa abbiamo vinto e segnato pure tu, non ti ricordi? Sono 10 milioni a testa, Antonio. Più soldi che ci possiamo scommettere per conto nostro. No, io non ci sto. Poi il mister vi uccide. Ci uccide se non lo facciamo l'accordo. Ci ha già fatto puntare 30 milioni suoi personali. Io mi tiro fuori. Poi lo sai, Filippo, un paio di volte l'ho fatto, ma te l'avevo detto che non ci stavo più. Quindi basta. Andò, siendamelo poco, ti faccio un altro regalino, eh? Una commessa che lavora con mia moglie. Giuseppe Sansonna, buongiorno. Tu che sei entrato nelle rassegne della storia del cinema per un film dedicato appunto al mondo del calcio, Zemanlandia, di cui poi parleremo perché fa parte comunque del nostro repertorio. Ecco, come il cinema italiano ha trattato il mondo del calcio, ma non con intento puramente elogiativo e unicamente entusiastico, ma anche per mostrarne questi aspetti oscuri, che guarda, mi sembra di capire dal mio punto di vista dell'ignorante, che non esiste peccato così facilmente perdonabile per l'opinione pubblica generale degli italiani quanto quello che compie qualcuno legato al mondo del calcio. Sono anni che sentiamo parlare di piedi sporchi, di calciopoli, di marciume nel mondo del calcio. Tutti continuano a dare le partite, tutti continuano ad elogiare i calciatori, tutti continuano a darla velocemente e piacevolmente a degli orrendi personaggi soltanto perché fanno i calciatori. Ma perché poi lo scandalo si ricompone molto brevemente, la memoria è corta un po' in tutte le magagne italiane. Comunque quello che abbiamo ascoltato è uno dei più bei film italiani degli ultimi anni, non solo, che L'uomo in più di Paolo Sorrentino, che descrive e fotografa un momento particolare, cioè il 1980, è il primo scandalo del calcio scommesse, quindi quando i giocatori avevano ancora i baffoni, la zazzera lunga, le basette. Io andai a intervistare uno dei protagonisti di questo calcio scommesse, che era il monumento, l'Azteca Hiro, l'eroe d'Italia Germania 4-3, ovvero Ricky Albertosi, perché mi affascinavo, lo trovavo un volto da poliziottesco all'italiana, appunto, con questi baffoni, questo naso piallato. Veramente era un'altra generazione i calciatori di allora, sì, avevano questa stigma forte dell'uomo che si era fatto da solo, il popolo, non avevano questa sorta di orgoglio coatto che oggi contraddistingue la maggior parte dei calciatori. Io lo chiamai, ebbi il suo numero, lo chiamai nella sua villa da Viale del Tramonto a Forte dei Marmi, questa villa sotto le Apuane, e gli dissi, come un ragazzino emozionato, è il mio mito, insomma, cercavo di raccontare la parte deteriore, però volevo prenderlo dal suo lato monumentale. Dissi, ma lei è il mio mito, è stato il portiere d'Italia e Germania, ha vinto lo scudetto col Cagliari. Dopo 3 ore di mia, insomma, litania, lui disse, sì, ma io cosa ci guadagno? E lì mi dette una grandissima lezione di vita, cioè lui voleva, per essere intervistato, naturalmente. E una delle sue cose assurde, dopo che finì il calcio scommesse implicato e stette anche 15 giorni a Regina Coeli, c'era sul giornale, sono andato a cercare, giocava a pallone nell'ora d'aria con i detenuti, insomma, cioè, immaginati un buffone che finisce in galera e passa il suo tempo all'ora d'aria a giocare a rigore, insomma, c'è, cioè, una sorta di surrealtà. Beh, è una storia da film questa. E infatti volevo farlo, ma il culmine è che dopo il calcio scommesse, dopo che fu in parte riabilitato, fu ingaggiato dagli Harlem Globetrotters, te li ricordi? Sì, come no, ma lui giocava anche a basket. No, lui veniva chiamato, immaginati uno Buffalo Bill con zazzera grigia, lunghe baffoni, che veniva chiamato fra un tempo e l'altro, installavano una porta mobile sul parquet del basket e dice, tira un rigore ad Albertosi, e lui si metteva là e prendeva i rigori della gente. Ha detto, ma perché lo facevo? Lo facevo per beneficenza. Ma ha detto, per beneficenza. E continua così a fare questa attività? No, adesso è settantenne, sta arriva ancora alla SNAI a giocare a... Beh, starà in qualche centro per Umarell e faranno lo stesso gioco. Se sta ancora lì, sta ancora nella sua villa, appunto, alla Sunset Boulevard a Forte dei Marmi. 800240024, come Sansonna è una fonte di aneddotica nel campo del calcio per scoprire l'aspetto umano e l'aspetto comune anche degli idoli del calcio, fate anche voi la stessa cosa, telefonatemi, chiamatemi, parlate la vostra disillusione, parlatemi del vostro dolore o parlatemi del vostro immarcescibile orgoglio che vi fa dire, beh, c'è qualche mela marcia, ma rimane sempre un mondo fantastico. Senti Andò, tu per me non sei tagliato per fare l'allenatore. Perché ti ostini? Fino adesso nessuno ti ha chiamato, neppure una squadra minore. Dico, tieni un lavoro, mo. Perché ti sei fissato con questa storia di fare l'allenatore? Sei per le polizze, col lavoro che faccio io te ne faccio fare tonnellate. Ma che state dicendo? Che c'entrano le polizze? Comunque, presidente, a me va bene anche allenare gli allievi. Mica devo stare per forza in prima squadra, no? Sarei un presuntuoso a chiederle questo. Andò, io devo dire quello che penso. Penso che il calcio è un gioco e tu sei un uomo fondamentalmente triste. Non la sento più la radio che sentivi sempre insieme a me. Qual è il punto di vista di questo film? Cosa vuole raccontarci? E quale soprattutto è stato l'effetto poi che ha sortito? Racconta il calcio deteriore delle scommesse, degli intrighi, e racconta l'utopia di questo ragazzo, di questo calciatore che subisce un grave infortunio all'apice della sua carriera e ha l'utopia di portare la bellezza nel calcio, un po' alla Zeman appunto, però è circondato da squali, da, come il presidente che gli dice... E il calcio è un gioco e tu sei una persona fondamentalmente triste. In realtà lui è amante del gioco, della bellezza, della purezza del gioco, e non è un pesce fuor d'acqua in un mondo troppo torbido come quello calcistico, che in realtà è uno specchio poi della società italiana, insomma, in cui Sentiamo qualche ascoltatore. Giorgio, sì, questa mattina non c'è scusa per non partecipare. Giorgio, buongiorno. Sì, buongiorno a lei e buongiorno a Sam. Lei da che parte sta? No, io sono tifosissimo e sto dalla parte del calcio, perché mi piace proprio il gioco. Io quando ero ragazzino a scuola mi dicevano: ma tu sei sportivo? Io non capivo cosa significasse. Sei sportivo significava che se seguivo qualche partita di calcio. Quando si giocava figurine, io avevo le figurine tutte le partite, non privilegiandone nessuna. Lei in realtà sin da piccolo sarà sempre stato appassionatissimo di calcio, perché se non, uno non lo ha nel DNA, poi non si può pretendere che crescendo possa mantenere una passione. Fin da piccolo sempre stato innamorato, però come lei ho sempre avuto l'handicap di non essere buono a giocare, anche io avevo quell'handicap. Mio malgrado, ma questo l'hanno penso il 99% di quelli che vanno a vedere le partite e che non lo confessano. È vero. No, dicevo questo, Nicoletti, la cosa si spiega in questo modo, perché fra la Serie A e fra il mondo della Serie A, proprio l'aspetto umano, no, che cambia, e il mondo della Lega Pro, che era la vecchia Serie C, no, dove adesso sta esplodendo il problema, c'è proprio un abisso, c'è una differenza proprio enorme, perché da una parte sono i lustrini, dall'altra c'è proprio un mondo di frustrati, di frustrazione, di gente che prende, dovrebbe prendere 4-5 mila euro al mese, che farebbero la felicità di tutti, però non li prende mai, perché sono tutte società o fallite o sull'orlo del fallimento. Cioè è veramente un sottobosco la Serie C, dove è facilissimo, soprattutto nei confronti di ragazzi giovani e magari non molto, non, che a loro venga la tentazione, dice. Sì, perché non prende, c'è gente che chiede miglia, come si dice, e che non vede. Ma allora perché non viene la tentazione, non so, nella categoria degli idraulici, dei meccanici, perché i calciatori devono per forza allargare il loro budget mensile con sistemi truffaldini? Mi faccia capire, perché devono per forza fare un tenore di vita che fanno quelli di Serie A, non capisco. Poi il portiere del Benevento prendeva 10.000 euro al mese, cioè non è altro che 4.000-5.000, e non era il solo, il capitano della Nocerina è stata promossa in Serie B. È stato arrestato perché aveva migliaia di ecstasy in macchina che andava a prendere a Castelvolturno, ed era il capitano di una squadra che ha vinto trionfalmente la Lega Pro. Cioè, ci sono una serie di casi. Diciamo, Francesco, che in realtà nello stereotipo della figura del calciatore, tu possa giocare per la squadra della parrocchia o dell'oratorio, o tu sia in Serie A, nella mente o nella percezione comune ci deve essere un tenore di vita, una possibilità e un potere d'acquisto che in realtà non è corrispondente a quello che dovrebbe dare realmente il tipo di professione. Sei d'accordo, Giuseppe? Sì, poi per esempio c'è il Toy Boy di Simona Ventura, il Big Jim Bettarini, che appunto è stato un mediocre calciatore, però è questa figura plastificata che vuole di reality in reality, a cui piace evidentemente, alle intercettazioni, fare il malandro, insomma stare un po' nel torbido giro delle scommesse in cui si incrociano appunto le serie minori e quelle maggiori, il mondo patinato e quello torbido, è tutto molto intrecciato per appunto favorire la... Sì, ripeto, scommettere non è un reato, perché si prova anche orientare le partite, questo volevo dire, non voglio demonizzare chi scommette, perché io sono la libera espressione di ogni vizio, se non sia deleterio, contro la legge o criminoso. Andiamo avanti, Francesco. Francesco? Buongiorno. Sì. Buongiorno a lei, la chiamo dalla sua Perugia. Bravo. Allora, le dicevo... Città molto segnata dal mondo del calcio, io ricordo. Sì, Gaucci insegna. Allora, maestro di vita. Allora, il discorso che volevo fare è questo, cioè è abbastanza superficiale e comodo anche far passare i calciatori come tutti dei linari o tutti dei... No, ho detto i più evidenti rientrano in questo stereotipo, i più evidenti, sì, i più noti, i più famosi, quelli che fanno a cazzotti con corona, si spaccano la faccia a vicenda, fanno parte ormai di un patinato mondo in cui prevale l'ignoranza, prevale l'apparenza, ma non dico che sia negativo, è una settica lettura, non dico che facciano male, vorrei io essere un calciatore, quindi si figuri. Fossero solo questi calciatori, nessuno li seguirebbe. Siccome però nel calcio ci sono stati esempi, cito due a caso, uno del nord che è stato Rivera, che è diventato sottosegretario allo sport. Sì, ma lei parla di un altro periodo, scusi. Abbiamo fatto la distinzione, sì, a priori. Però, era il periodo dei basettoni, dei capelli cotonati, dei bravi ragazzi. Rivera non l'ha mai portato i basettoni, questo penso che... Certo che l'ho portato, e che non è... che ho mai detto, un po' di basetta la ricordo, in alcuni momenti anche Rivera ha portato le basette, ricordo delle foto. Sì, sì. Ho fatto però, tutto, diciamo, guardi, io ho lambito tutti gli aspetti peggiori di ogni decennio che ho attraversato, quindi non è che mi però faccio fuori. Non è solo quello, cioè ci sono dei giocatori che sono così, e probabilmente saranno anche la maggioranza, però ci sono dei giocatori, dei calciatori che hanno fatto anche delle carriere fuori al calcio, e quasi sempre fuori al calcio. Sì, ma a un certo punto vogliamo dire che negli anni 80 si è fermato poi questa generazione e è cominciata un'altra cosa. Non non credo, sinceramente non credo, voglio essere... Mi faccio degli esempi, no, vabbè che sono ignorante, mi faccio degli esempi contemporanei di queste figure Tommasi, specchiate. Tommasi, se mi spiega chi è, perché non lo so. Sì, è talmente eccezionale, è talmente eccezionale la figura di Tommasi. No, ma poi è vero che non sono tutti, no, spieghiamo così, perché calciatore. Non è una trasmissione di calcio questo. No, certo, no, Daniele Tommasi è un calciatore molto impegnato, un grande calciatore della, un ottimo calciatore della Roma, che è molto impegnato nel sociale, una persona molto corretta, intelligente. E in dubbio ce ne sono molti altri come lui, e ce ne sono anche molti altri, un modello dominante, mediaticamente dominante, che è opposto, però appunto, che e viene promosso molto da televisione, trasmissioni televisive, che diventa il simbolo del calcio. Sì, ma generalizzare è sempre sbagliato. Questa mattina stiamo semplicemente spiegando che una delle più grandi e giustamente importanti passioni nazionali, quando venne attraversato dei momenti bui, che ci è passata la politica, ci sono passati illuminati i padri della Chiesa, ci sono passati tutti in mezzo, ma per gli altri diciamo il conto è lungo a pagare, per i calciatori c'è una sorta di generale assoluzione pubblica sempre. Sai, da un lato c'è anche la rabbia immediata, perché comunque il popolo davanti a gente che guadagna queste cifre così alte e poi si mette anche a fare delle scommesse, adesso non si so, non so, ma io odio gli invidiosi degli stipendi altrui. Se guadagnano tanto vuol dire che nel mercato quello è il loro valore, non, certo, su questo non voglio assolutamente... Ti davo il polso della reazione popolare, prima c'è quello e poi c'è la rapida dimenticanza, l'oblio immediato, ma un po' come per Paola, tutto. Sentiamo Paola. Buongiorno dottor Nuvoletti. Sì, dottor Nuvoletti lo dice a suo zio, scusi. Principe Nuvoletti. Allora lo dico a mio zio. Ecco, bravo, avanti. Zio Nuvoletti. A me piace essere preso per il culo, però posso rispondere. Va bene, non c'è problema. Sì, prego, vada avanti Paola. Allora sì. La cosa è reciproca. Allora, ascolti, io sono insegnante di educazione fisica. Brava. E sono contraria al calcio. E le spiego, nonostante organizzi i campionati studenteschi, quest'anno ho fatto un torneo calcio a 11. Il caro collega mi aizzava i suoi alunni contro i miei, giocando al massacro. Beh, i suoi cosa facevano? In che specialità eccellevano? Calcio a 11, è una partita di calcio a 11 con una disposizione... Quindi anche lei, anche i suoi giocavano a calcio? Sì, sì, sì, ho partecipato come scuola a un campionato studentesco. Oh. Beh, quindi... Bene o male, anche, nonostante la sua riluttanza, ha professionalmente portato... Perché i ragazzi me lo richiedono, ma io non posso fare a meno, venir meno a quello che sono... Ma lei, se potesse scegliere, cosa farebbe fare ai suoi ragazzi? Ai miei ragazzi? Ho fatto fare un bel campionato studentesco di tiro con l'arco, siamo arrivati meraviglioso. Io ai campionati nazionali. Quello apprezzo, ho tirato con l'arco io in giro. Perfetto, mi fa piacere, è un bellissimo sport, rilassante, ma soprattutto pedagogico, ecco. E sì. Si possono stringere le mani ai colleghi e agli alunni. Pensi un poco che il massimo del mio masochismo, alla faccia del suo cinismo, domani pomeriggio devo premiare i ragazzi per un torneo interno di calcio, ha capito? Questo le arreca dolore? Molto, guardi. Io non ho pregiudizio, a me diverte comunque vedere queste cose, non ho, forse è un problema perché non ho mai giocato a calcio, però mi hanno messo da ragazzo un arco nelle mani e mi piaceva molto tirare con l'arco, quindi mi ricordo. Ecco, allora almeno una nota di merito. Però capisce, no, del Nuvoletti, non mi chiamo Nuvoletti, solo quello il problema. No, allora chiedo scusa. Solo quello, emozionata. No, come Totò che... Nicoletti, l'ascolto. Come Totò che sbaglia i cognomi apposta. Io sono... me la prendo molto per queste cose, allora, capito? Va bene, se intuisco il malevolo intento, se è semplicemente un errore, pazienza. No, è un errore, guarda. Ah, un errore, allora perdonate. L'emozione è piacere di parlare con lei. Va bene. È una ruffianata pazzesca. Va bene, a me piace anche che mi si lecchi ogni tanto. Lorenzo. Ciao a tutti, e un saluto a Beppe. Io ho chiamato stamattina perché ho la stessa passione per il cinema e per il calcio, cioè praticamente sono con la stessa, entrambe le cose sono alla stessa intensità, e devo dire che il cinema ha incrociato spesso, quando si è occupato di calcio, storie di fallimenti. Invece mi piaceva stamattina, ecco, ricordare che un episodio delizioso con Montesano, ma vorrei essere fuori traccia, però quando la combina di una partita era motivata da cose carine, cioè qua, non so, negli anni 70 andavano molto in voga le squadre femminili, non so oggi se ci sono ancora dei campionati con... ci sono, con, sì. Sì, ci sono, però ecco, all'epoca la squadra femminile, insomma, aveva anche delle sfumature boccaccesche. Mi ricordo delle sorprese presentate. Sì, sì. Infatti Montesano era un giocatore che era stato radiato dall'Albo per intemperanze, calcio scommesse, eccetera, e viene convocato per una finale, fanno praticamente questa combina e lo truccano da donna. Lei comincia a segnare, comincia a fare gol, sta portando la squadra alla salvezza, improvvisamente alla fine c'è un calcio di punizione e lui improvvisamente, come si fa nelle partite classiche, mette le mani avanti. e poi non può più farlo perché ovviamente desta sospetti e la palla dritta, naturalmente lo castra, svelando l'inganno. Quindi ecco, questo è un po' il gioco assurdo, volevo semplicemente far sorridere. Guardi, io questa mattina ho subito una gravissima e devo dire molto dolorosa censura da parte di Sansonna. Sono seduto a questo microfono e nel momento che andava la sigla mi sono accorto che era stato tolto dalla scaletta dei miei desiderata un film fondamentale della storia del calcio, che nel frattempo il maestro Chiappini, che è il mio fornitore spacciatore di B-Movie, ha recuperato, e quindi alla faccia di Sansonna la mando subito, perché mi sembra corroborare la sua visione del calcio visto attraverso il cinema. Hai visto cosa scrive Tondetti? Che ti ubriachi, che fai le orge, meglio così. Tutti devono credere che sei fuori forma, che non vali più niente. Ma se è vero, capitano, io sono gran forma. Lo so, ma l'Inter deve credere il contrario, deve sottovalutarti. È pretattica, capisci? Anzi, facciamo così. Tu fai venire qui quel coglione che hai messo il tuo posto in albergo e io invito Trombetti, eh? Certo, certo. Dai, Cotechino, date da fare. Ammazza, ma hanno preso pure loro per Cotechino. Allora, la prima volta da 2 anni che vieni qua a Sansonna, devo farti veramente una mozione di sfiducia. Paolo Roberto Cotechigno, centravanti di sfondamento, un film immenso di Nando Cicero con Mario Carotenuto, Carmen Russo, Alvaro Vitali, Moana Pozza, Tiberio Murgia. Guarda, c'è il top il dei Gota, vivi e dei morti del mondo del magia. Perché non volevi mandarlo? Io ricordo di questo film solo una cosa, che Falcao diffidò appunto al Vitali e tutto l'orrendo clan, l'orrenda troupe di questo film, da mettere il giocatore Cotechigno con la maglia della Roma, infatti ha la maglia del Napoli, cioè per allontanarlo da se stesso, il tapiroide Vitali con la chioma. Mi fermo un attimo, riprendiamo tra un istante, dopo l'informazione della borsa, la disquisizione su uno dei più importanti film appunto della storia del calcio vista attraverso il cinema, che è Paolo Roberto Cotechigno, centravanti di sfondamento. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Tu puoi farmi un massaggio? Dove? A chi? A chi? Oh, dolorino, ottengo mais en bajo. Chi? Mais en bajo. Mangi forte, mi fa se male la bunda. Che lo dici? A me la bunda mi sta scoppiando. 800240024, un grande rammarico, ho notato, mi sono reso conto di non potermi fidare di nessuno. Riprendiamo comunque con una rettifica necessaria e doverosa questa trasmissione dedicata al mondo del calcio visto attraverso l'occhio implacabile e imparziale del cinema, con un film che è una pietra miliare nella storia del cinema, Paolo Roberto Cotechigno, centravanti di sfondamento di Nando Cicero, che Sansonna aveva proditoriamente e vigliaccamente omesso e estrapolato dalla mia scaletta, e che il professor Alessandro Chiappini ha recuperato in tempo record durante l'intervallo. Allora, Giuseppe Sansonna, vediamo se riesce a fare ammenda e parlarmi di questo fantastico film. Sì, è ispirato a un Falcao che con i suoi boccoli da perché, tutto. Vedi, è importantissimo per sì, questo. Sì, che poi si perché si siamo già dimenticati del fenomeno Falcao, che è un fenomeno che attraversò l'emotività nazionale una ventina d'anni fa. Scese dalla scaletta dell'aereo arrivando a Roma, insomma, all'inizio degli anni Ottanta, con la madre e con Pato. 30 anni fa, sono già passati 30 anni. Con Pato, il suo leporello, poi diventò, cioè, sembravano una coppia gay, in realtà fecero incendio. In realtà castigò le mogli del 90% dei VIP del tempo. Tifosi facciamo. Illustri, sì, sì, fu implacabile con attrici, con mogli altrui, appunto col suo fido. Lasciò anche figli se in giro sparsi, qualcosa del genere. Sì, però io ti supero a destra, visto che tu hai citato Paolo. No, finiamo del film. Ecco, Alvaro Vitali, in questo film, diciamo, parla di Cotechigno. Viene fiaccato da questa Carmen Russo, esattamente come accadeva in un'altra pietra miliare del cinema, che è un cinema un po' più indipendente, che è Mondiali, con la compianta Moana Pozzi e con Cicciolina. Che anche qui c'era Moana Pozzi. Patrioticamente, appunto, fiaccavano i vari Gullit, Maradona, attori, insomma, che erano Ron Jeremy e altri, li fiaccavano per far vincere poi l'Italia. Insomma. Diciamo che oggi una storia implacabile e sincera di ciò che accade nel mondo del calcio dovrebbe metterci baldi giovani palestrati che fiaccano i calciatori, però nessuno ancora questo tabù, nessuno vuole superarlo. Sì, c'è anche quel tabù non detto, poi soprattutto per esempio il portiere Benevento pare che abbia fiaccato mettendo appunto del sonnifero nel tè dei giocatori della sua stessa squadra, quindi sono vari modi di fiaccare. Dai, supermi a destra, qual è, cosa vuole citare? Volevo citare i mondiali, quello che ti ho detto prima, con appunto con Moana Pozzi e con Cicciolina. Sì, adesso che ho cominciato io, grazie. Vuoi tenerti alto e delicato eccitante il romanticismo del mondo del calcio. Sentiamo Virginio. Virginio. Buongiorno signor Gianluca. Eccomi qua. Il suo ospite. Io volevo, credo che possa essere interessante quello che cito, perché parallelamente a chi è già arrivato in certi ambienti c'è la fila fuori di chi vuole arrivare anche in maniera non lecita. Certo. Le cito un esempio fantastico proprio di ieri. La procura di Rimini ha praticamente arrestato 4 persone, indagate 56 altre persone, addirittura dei genitori che con loro consenso volevano e auspicavano che i loro figli fossero dopati con ormoni e compagnia cantante, quindi ma ragazzini di 15-16 anni, pattinaggio, tennis, calcio, e chi ne ha più ne mette. Cioè, questo mondo vogliono fare dei piccoli eroi dello sport, erano disposti a farli passare attraverso qualsiasi tipo alla salute, perché questi potrebbero essere dei potenziali malati fra 20 anni di qualsiasi malattia possibile e immaginabile, oltretutto nell'età dello sviluppo dove gli anticorpi non sono ancora al 100%. Cioè, io credo che questo mondo dorato ci abbia portato tantissimi cittadini a vivere fuori dal mondo, a mettere a rischio la salute pur di 4 soldi in più che poi magari dopo se ne spendono. Il problema è che molte volte l'idea in una famiglia è che il piccolo campione del calcio diventi una risorsa per tutti. Io conosco persone che regalavano gli scarpini da calcio a bambini che ancora non sapevano camminare, sognando già di padri maniaci che li portano a fare gli allenamenti, ragazzini che amerebbero fare tutt'altra cosa. È una risorsa, è come bellissima che vuol far fare alla figlia l'attrice. Pensano sempre che possano notevolmente arrotondare il budget familiare con questa attività, e poi niente, compensano anche le frustrazioni degli adulti che non sono riusciti a fare quello che volevano. Io facevo l'arbitro di calcio da ragazzino a Bari, e quando mi recavo nelle periferie della città o nei paesini avevo queste madri appunto. Cioè fatto di tutto, mercenario. Comunque, quindi queste madri che ti si offrivano pure di... No, che si offrivano, mi auguravano di morire, io ero sedicenne, mi volevano decapitarmi perché ammonivo il figlio. Insomma, ma poi tutto nell'ottica della competitività esasperata, di quello che dicevi tu, della compensazione di una frustrazione quotidiana che va appunto risolta. Quindi hai conosciuto da vicino questo mondo. Stefano. Pronto? Ecco, ex calciatore. Io sono un ex calciatore, sono arrivato al livello del professionismo, poi un problema fisico mi ha allontanato e fatto perdere il treno, perché ahimè nel mondo del calcio è dura ammetterlo, però molto spesso vanno avanti coloro che hanno ottimi sponsor, ma da diverso tempo, al di là delle qualità del singolo che in talune situazioni emergono, gran parte di quello che gravita intorno al calcio è illusorio. Tra l'altro io ho anche gestito un sito di scommesse, quindi sono stato nel mondo e conosco, e amaramente devo purtroppo dire che la cosa è datata, quella che è esplosa adesso è soltanto una delle tante pagine di un mondo molto, molto artefatto che la società costruisce perché ama vedere quello che probabilmente non c'è, perché si gratifica soltanto parlandone o soltanto ammirandone aspetti positivi. Vabbè, guardi, le illusioni sono sempre le maggiori, esatto, attrazioni per tutti. Dice bene Santone che poi alla fine è l'unico probabilmente settore della vita quotidiana. Come l'ha chiamato? Santone? Santone. Come il giocatore. Cioè, sì, è come giocatore dell'Inter, sì. Esatto. Che, però io mi chiamo Sanson. Sanson, e quanto sei Antonio? Scusa per il lapsus. No, ma va bene anche Santone. Nuvoletti e Santone sono un'ottima coppia. Il mondo del calcio è l'unico settore della vita quotidiana, ma lo sport in assoluto, che ha una periodicità di valutare il negativo molto limitata nel tempo. Quindi vabbè, perché? Perché è il top delle illusioni nazionali. Degli oppiaci. La sostanza psicotropa più largamente diffusa, quindi difficilmente uno ne vede gli aspetti negativi. Io arrivo a Foggia da Piacenza, incontro il mister, che non avevo mai conosciuto personalmente prima, e mi dice ciao Bomber. Io di Bomber non avevo assolutamente niente, perché l'anno prima in Serie B a Piacenza ho fatto 5 gol, di cui 3 su calcio di rigore, quindi aveva visto in me forse qualcosa che io ancora non avevo capito di avere. Alla meglio è il fantasista del Foggia, intuizione e servizio per signori. Il monello biondo controlla, affonda e fulmina il portiere sul primo palo. Allora, in questo film Zemallandia, realizzato e prodotto da Giuseppe Santone, che è il nostro Sanson, che è il nostro ospite fisso quando parliamo di cinema, appare Beppe Signori, che è uno dei personaggi chiave di questa ultima inchiesta sul calcio. E a me piace ricordarlo. Quindi così. L'hai visto, l'hai toccato, sì, l'hai conosciuto. Lo conobbi quel giorno nella sua casa, la Balduina, un po' assonnato con questa moglie. Tu vai sempre a casa dei calciatori. Sì, no, solo in quella circostanza, però lui... Come hai detto, a casa della Balduina? A casa della Balduina, con, su questo assonnato. Prato, assonnato, su, con questa moglie bellissima, con questo prato meraviglioso davanti, insomma... Lui è emerso in questi giorni che è sempre stato un maniaco delle scommesse lecite, no? Delle, scommetteva il ritiro di mangiare un bondì, cioè metteva in palio dei soldi perché riusciva a mangiare un bondì in 30 passi, un bondì in motta facendo 30 passi, quindi, e vinceva sempre perché nessuno ci riusciva, perché era troppo secco da deglutire, cioè, avrebbe scommesso anche sulle pulci. Però evidentemente il carico di adrenalina che aveva in campo quando ci metteva di tutto per segnare non è riuscito poi a compensarlo nella vita quotidiana, non lanciandosi eccessivamente in analisi psicosociologiche, però mi sembra che possa emergere questo come ritratto, perché fondamentalmente non è assurdo bruciare il proprio ruolo di totem per finire in un fango da cui non esci più in questa merda. Quindi gente entra in una sorta di passione per il gioco, passione per la scommessa, per l'azzardo, che ti fa perdere i limiti. Chiaro, c'è un'inchiesta in corso, nessuno deve dar giudizi, certo, finché non c'è una sentenza su questo, e nemmeno noi lo faremo stamattina. Però il fatto che se ne parli, che sia intorno, che li porta alla ribalta, che comunque rivela degli aspetti che pubblicamente non sempre emergono, ci fa riflettere su cosa ci sia dentro questo mondo, attorno a questo mondo, di fittizio, di illusorio, ma non per questo il meno affascinante. Io non ho nessun disprezzo per ciò che è illusorio, per ciò che falsifica la realtà, perché trovo che sia quello il vero segno del fascino. Però l'illusione ci deve essere, ma un'illusione che abbia delle sue regole interne per essere realmente affascinante, che possa essere imprevedibile. L'illusione deve essere sempre sregolata. Sì, Santone, sì, cosa mi vieni a dire? Dai. No, però delle regole di suo rigore di gioco, sennò diventa un'illusione prevedibile, appunto, programmata a priori attraverso. Sì, diciamo che periodicamente si ricade sempre sulle stesse cose. Sì, sì. Sporchi giretti per fare quattro soldi in più. A me piace che possa vincere chiunque, e proprio per quello è il bello del gioco dell'illusione. Quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Su, coraggio ragazzi, non è niente. Andate a prendere una bella tazza di tè. Su, avanti, avanti. Chi vuole ci può mettere anche il limone. Su, su, anche voi, aiutateli, aiutateli, che nel secondo tempo vinceremo. Su, forza! Forza! E sono quattro! Girano i grassetti, eh? Girano, eh? Vedo, vedo. Roba da maghi! Gli è bastata una parola del mago nell'intervallo e vincerono 4-2! È fantastico vedere come la storpiatura e lo sbeffeggio e lo sberleffo sulla realtà sia prevalente su ogni certezza. Su Facebook, su entrambi i profili, quello pubblico e quello privato, parliamo di una 15.000 persone circa, sta prevalendo il gioco nel chiamarci Santone e Nicoletti. Penso che d'ora in poi dovrebbero essere questi i nostri cognomi. Allora Giuseppe, di cosa stiamo parlando adesso? Franco Ciccio, vedi che adesso ormai ci siamo abbandonati la deriva. I film boccacceschi e storpiatori, il calcio ha avuto una sua sacralità anche nel cinema. Raramente, se non nel B-movie, ha osato toccare questo mondo, un po' per paura di andare a ferire le pudicizie nazionali, un po' per paura di fare un insuccesso, perché su tutto si può scherzare, ma sul calcio un po' meno. In realtà il B-movie si attaglia perfettamente al mondo del calcio, perché è un mondo. È un B-movie il calcio, B-movie in sé, in realtà. Permanente. Qui c'è Franco Franchi, che ha avuto anche lui col nome storpiato, c'è Francesco Ingrassetti, che ingrassi anche lui, le storpiature tipiche di quel cinema. Qui si chiama KK in omaggio a HH, che è Elenio Herrera, il mago dell'Inter, e quindi lui con questa riga al centro, Franco Franchi, somministra questo tè al doping che permetterà alla squadra di Pizzusic, la squadra di cui è allenatore, di stravincere in nome del doping, in nome della corruzione. Insomma, questo era un po' il ritratto fatto attraverso questi personaggi. Di dov'era questa squadra? Siciliana, ovviamente, erano tutti e due fortemente siciliani, calati in questo contesto di Serie B. Quindi, ma che ritrae perfettamente quello che era poi il mondo del calcio, le figure grottesche a tinte forti che palpitano nel mondo. Sentiamo Andrea, che ha un'esperienza personale, dice. Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno. Niente, volevo raccontare un paio di esperienze personali. La prima, al di fuori anche del calcio, anche negli sport come il basket, ad esempio, si vede la stessa come si dice, tracotanza, no? degli adulti. Sì, però è lievemente più elitario rispetto al calcio. Il calcio tutti lo guardano, sì. Il basket già è una scelta diversa, ecco. Sì, però credo che cominci sin dall'età. Io ho un bambino giovane, 4 anni, e mi rendo conto adesso da papà che gli errori che fanno gli adulti si devono per forza poi ripercuotere sui giovani. Beh, l'umanità segue il suo corso dalle sue origini. Un padre con un bambino di 3-4 anni a fianco che tirava parolacce irripetibili all'arbitro urlandole, e questo bambino mi ricordo che si guardava intorno spaesato, non capiva cosa succedeva, però assorbiva l'aggressività che gli veniva manifestata, quindi dopo l'avrebbe sicuramente da adulto e molto probabilmente manifestato anche lui. Ci sono bambini che vedono il padre che sbatte sul muro, la madre è un po' peggio, quindi diciamo ciò che si nasconde nelle famiglie molte volte mi terrorizza molto di più di queste manifestazioni un po' coatte, ma che devo fare? Cioè, Flaiano diceva che l'arbitro è il nemico pubblico degli italiani perché deve prendere una decisione netta in tempi brevi, quindi questo alimenta l'odio popolare, l'acrimonia nei suoi confronti. Ecco, ma perché... mi scrivono adesso Santone anche nei cartelli di intercomunicazione con la GIA. Santone, mi dici perché secondo te non riesce il cinema, come c'è riuscito alla letteratura ad esempio, a parlare in maniera affascinante di calcio? Il calcio in realtà dal cinema in sé è irrappresentabile, perché nel calcio accade qualcosa, c'è un'immagine in movimento che ha un suo fascino in sé, non può essere riprodotta, laddove viene riprodotta diventa caricaturale, come Fuga per la vittoria, in cui tutto deve essere enfatizzato, la rovesciata di Pelé, Silvestre Stallone, in porta. Può parlare dei margini, degli anfratti, degli interstizi, dei tunnel, degli stadi, ecco, il calcio in questo è riuscito... Nell'Uomo in Più è un caso, già Pupi Avati con Ultimo Minuto fece un film un po' più didascalico, con grandi intuizioni e preveggenze, però L'Uomo in Più racconta invece i margini, il fuoriscena, il ritiro, i viali del tramonto lastricati di cattive intenzioni. Sentiamo Mauro. Mauro, buongiorno. Buongiorno. Allora, io ho chiamato, non sono un ex calciatore, non ho niente a che vedere con il calcio, tranne che il fatto che mi piace, però... volevo dire che tutto questo marciume che sentiamo in giro per il calcio e credo che non sia solo, diciamo, è a base di tutto nella vita quotidiana. Certo. Lo vediamo in tutti i giorni, insomma, che parte dal singolo e che ci porta poi a corrompere un sistema o a tentare di corrompere questo sistema. Ma noi siamo corrompibili dal momento che nasciamo, diceva Francisco di Quevedo, che era un grande poeta barocco, che le fasce del neonato corrispondono al sudario del cadavere, quindi siamo già putrefatti quando nasciamo praticamente, in un'ottica pessimista. La medicina non l'abbiamo ancora inventata, insomma, ecco, per poter guarire da questo. Dopo il giudizio universale forse ci sarà, finché uomini siamo fatti di questo, non dobbiamo scandalizzarci più di tanto. No, non ci dobbiamo scandalizzarci, però allo stesso momento credo che dobbiamo scandalizzarci, perché siamo sempre tentati. Allora io sto e prendo appunto da questo, diciamo, tema che stiamo parlando, anche di un'esperienza personale. Io ho 40 anni, una famiglia, e vedo tutti i giorni, ho a che fare con del denaro, ma non avevo da fare anche prima, però ultimamente vedo che sto prendendo una brutta piega. Cioè? Con l'azzardo. Ah, con l'azzardo. Il demone del gioco. Sì, il demone del gioco. Se la sente come una patologia, si faccia curare. Ci sono cliniche che tolgono, come ci sono altre passioni deleterie. Se diventa una malattia, giocare può essere divertente, ma se lei la sente come una dipendenza, vada subito da qualcuno che la curi. Si ferma in tempo, visto che lei è consapevole, c'è chi questa passione ce l'ha anche per altri tipi di vizio. Lei sente che il giocare fa parte delle circostanze indispensabili del suo quotidiano, quindi probabilmente comincia a entrare in una zona a rischio, quindi vada da un cerchi su internet, ci sono vari centri, la convincono che giocare in fondo le può far male, penso, non lo so, ci sono anche altre cose che fanno molto male, ma questa evidentemente la rovina. Siamo arrivati alla fine della trasmissione, avrei mandato volentieri l'ultimo pezzo con Lino Banfi, che anche lui fa una delle più grandi espressioni della sua carriera. Giuseppe Sanzona, hai una battuta per concludere, visto che siamo in sigla? No, io volevo dire solo che mi sono occupato di Zeman proprio riferimento all'ultima telefonata, perché per sottrarlo al ruolo di Savonarola del calcio, di grande moralista, perché in realtà lui ha una pars construens molto forte, a parte costruttiva e vitale, e in Italia si tende ad attribuire appunto. Ma certo, i moralisti servono sempre per far sentire gli altri cattivi. Per nascondere tutto. Grazie ad Alessandro Chiappini al suo valido contributo, grazie a Fabrizio Intonti, grazie al grande Giuseppe Santone e ci sentiamo domani. Partis dans le tourbillon de la vie, on a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.